Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una mitologia di pugnali, lentamente si annulla dimenticata. Una canzone di gesta si è perduta in sordide notizie poliziesche. Oggi, più in là del tempo e della sciagurata morte, questi morti vivono nel tango, vivono nelle corde e nella musica dell'indomabile chitarra operosa che intreccia nella milonga gioiosa la festa e l'innocenza del coraggio. Vi sono cose antiche negli accordi, un patio nascosto, una pergola che si intravede. Dietro le pareti sospettose il sud ha in serbo una chitarra ed un pugnale. Questo incantesimo, questa esplosione, il tango, sfida gli anni affannati, fatto di polvere e tempo. L'uomo dura meno della leggenda melodica, che è solo tempo. Il tango crea un torbido passato che è irreale e in parte vero, un assurdo ricordo di essere morti in duello in un angolo del sobborgo. Jorge Luis Borges, il grande poeta e scrittore argentino, ha spesso usato il tango per raccontare una cultura, facendone un costante e sottile filo conduttore delle sue storie. Audacia, dolore, passione, personaggi estremi e teatrali, il pozzo a cui attingere è infinito e sempre sorprendente. L'UNESCO nel 2009 ha inserito il tango come bene culturale immateriale dell'umanità, perché personifica sia la diversità culturale che il dialogo e rappresenta l'essenza di una comunità. Buenos Aires, l'amatissima città da cui Borges non si separa mai, è allo stesso tempo moderna e tradizionale, popolata da figure mitiche, e trova la più intensa espressione della sua anima nelle milonghe, dove si balla il tango. Perché il tango è ballo, poesia, musica, ma soprattutto il simbolo stesso dell'identità argentina, la sua memoria. Io direi che il tango e la milonga esprimono in maniera diretta qualcosa che i poeti molte volte hanno voluto fare con le parole. La convinzione che combattere può essere una festa. Forse la missione del tango è proprio questa, dare agli argentini la certezza di essere stati valorosi, di aver adempiuto ai loro obblighi di coraggio e di onore. Quella che vi raccontiamo oggi a Destini Incrociati è la storia di un giovane argentino partito dal nulla e oggi idolatrato come un divo nel suo paese. Per la classe operaia a cui orgogliosamente appartiene, la vita di questo ballerino classico che ha portato il tango in giro per il mondo è una parabola che rappresenta la speranza di diventare qualcuno. 45 anni, fisico scultoreo modellato da anni di allenamento, sorriso sereno di chi ce l'ha fatta e umiltà di chi non dimentica mai di stare, almeno quando non danza, con i piedi per terra. Il suo nome è Julio Bocca. Julio Bocca. Ho origini modeste, ma ho dimostrato che si può arrivare in alto. È questo il messaggio che tento di trasmettere ai giovani del mio paese. Non si ottiene niente di duraturo senza lavoro e disciplina. Ognuno si può costruire il suo destino. A meno di 20 chilometri dal centro di Buenos Aires c'è un sobborgo chiamato Munro. È qui che il 6 marzo del 1967 nasce Julio Bocca. L'Argentina, economicamente e politicamente instabile, a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, vede una crescita sensibile e il declino della povertà. Ma il benessere è ancora lontano. Soprattutto continuano guerriglia urbana e omicidi, iniziano le sparizioni dei desaparecidos. Il clima di tensione favorisce il golpe che nel 76 porta alla presidenza del paese il generale Jorge Videla. Julio è ancora un bambino, ma neanche ai bambini viene data la possibilità di rimanere ignari di tutto quello che sta succedendo. In casa, quando si cominciava a parlarne, tutti abbassavamo la testa, provavamo rispetto e dolore. È stata ed è ancora una tragedia per il nostro paese. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGN. Julio Julio Bocca è un bambino divertente e divertito da tutto ciò che lo circonda. La sua curiosità è alimentata dai racconti dei familiari, soprattutto quelli più anziani, che portano avanti la tradizione orale di un paese che ha un passato fatto di grandi storie. Strani personaggi che abitano in città, guaritori mistici che convivono con i medici classici, musica che esce dalle case e invade le strade in ogni momento del giorno, sempre in bilico tra ritmo e malinconia. E questo è molto altro la Buenos Aires in cui Julio cresce. Chi come me è cresciuto giocando per strada sa che cosa significa imparare dalla vita. Il mio bagaglio si è arricchito a scuola, ma è parlando con la gente che diventi grande. La popolazione argentina è un crogiolo di culture. In gran parte è di origine europea, soprattutto di discendenza italiana e spagnola. I flussi migratori diretti verso il Sud America sono stati massicci fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, per poi riprendere negli anni 20 e a partire dal 45. Dopo gli Stati Uniti è l'Argentina, il paese che ha accolto più immigrati, e tra questi ci sono anche i discendenti di Julio Bocca, con una bisnonna meneghina e un nonno piemontese. L'Italia è sempre stata per lui un sogno. Guardavo le fotografie, le poche che avevamo, e mi immaginavo un posto meraviglioso. Speravo che da grande sarei riuscito ad andarci almeno una volta. Non potevo immaginare che il mio destino mi avrebbe portato in giro per il mondo e mi avrebbe legato a Milano in modo speciale. Figlio di una ballerina, Nancy, Julio Bocca mette piede per la prima volta su un palcoscenico a un anno e mezzo. Non sa ancora camminare, gattona, eppure sembra perfettamente a suo agio. Ho sempre avuto la sensazione di saper danzare. Talento naturale aiutato dalla genetica, il piccolo Julio comincia prestissimo a studiare danza. La sua è una famiglia di estrazione modesta, ma che ama l'arte e la musica. Suo nonno italiano, Nando, un operaio povero che non ha potuto studiare, si è appassionato all'opera e non passa un giorno senza che faccia sentire a Julio un'aria famosa. È mamma Nancy a insegnargli i passi elementari, nello spazio affacciato sul patio di casa che usa come piccola scuola. Quando ha 4 anni, Julio va in scena per la prima volta al Teatro del Globo. Già 8, nei camerini del Teatro Cervantes, capisce che questa è la sua strada. Impossibile, però, è prevedere fin dove ve lo porterà il destino. A lezione con me erano molte più bambine, ma non mi è mai importato. Stavo con i maschi a giocare quando era il momento, ma nessuno mi poteva togliere il piacere di danzare, neanche quando i bulli mi prendevano in giro. Se la classica è la base per ogni ballerino, per chi è nato a Buenos Aires non si può prescindere dal tango. Ballo sensuale e intenso, difficile da amare e da eseguire, Bocca lo scopre a 5 anni. Il tango è un pensiero triste espresso in forma di danza, ha detto Enrique Santos Dissepolo, uno dei primi compositori di tango. Fenomeno che coinvolge musica, ballo e parole, è di origine popolare ed è quindi impossibile datarne con certezza l'origine. Neanche il nome, che forse può derivare da tamburo, si sa esattamente da dove venga. Ma d'altra parte, l'alone di mistero è parte integrante del fascino del tango. Verso la fine dell'Ottocento, nei porti sudamericani del Rio de la Plata, sbarcano ondate di emigranti da tutto il mondo con la speranza di una vita migliore nella terra d'argento, l'Argentina. Sono spaesati, poveri, e convivono, comunicando a fatica, in squallidi appartamenti costruiti dal nulla. Da qui parte una miscela etnica esplosiva. Gli uomini incominciano a ballare tra di loro perché le coppie miste, vista l'allusione all'atto sessuale, sono considerate immorali. Quando il nuovo ritmo raggiunge i bordelli, il tango diventa carnale, passionale, esplicito. Anche le canzoni e i testi si fanno sceni, ma sono coinvolgenti a tal punto che dai bassifondi il tango si sposta agli ambienti bene di Buenos Aires, per poi attraversare l'oceano e conquistare la Parigi del Moulin Rouge. Abbiamo un ballo! Nei bordelli di Buenos Aires racconta la storia di una prostituta e di un uomo che si innamora di lei. Prima c'è desiderio, poi passione, poi sospetto, gelosia, rabbia, tradimento. Quando l'amore si dà al miglior offerente non può esserci fiducia, e senza fiducia non c'è amore. La gelosia, sì, la gelosia ti farà diventare matto! Se come tutti i ragazzini anche Julio Bocca è catturato dal fascino del proibito che il tango porta con sé, presto per lui ballarlo diventa qualcosa di più di un piacere, diventa un'esigenza intima, un bisogno viscerale, grazie al quale riesce a comunicare. A me piace l'idea che con i movimenti posso trasmettere quello che sono e che penso. Smuova la casa. Quando nel 1974 Ulio Bocca entra nella Scuola Nazionale di Danza, è chiaro a tutti che rispetto a chiunque ha una marcia in più. Impara immediatamente e ha una predisposizione naturale che tende già alla perfezione. Il suo carattere però non è sempre facile. Estremo in ogni sua manifestazione, già da ragazzino è umorale e ha un atteggiamento ambivalente. Se di solito è umile e generoso, capita che si chiuda a riccio fino a non parlare con nessuno e a sembrare superbo a chi non lo conosce a fondo. I suoi amici invece, che ancora oggi sono gli stessi e che considera parte della sua famiglia, sanno che questi momenti sono dovuti a una malinconia di fondo che torna a trovarlo di tanto in tanto. D'altra parte, nella danza, scindere la vita personale da quello che si porta in scena è impossibile. Una cosa è indissolubilmente legata all'altra e bisogna lasciarsi andare alle emozioni per emozionare il pubblico interpretando altri personaggi. Nel balletto non si può né si deve separare la tecnica dall'interpretazione. Non è la stessa cosa interpretare il principe della Bella Addormentata e Petruccio nella Bisbetica Domata. Ad aiutarti a elaborare il ruolo è innanzitutto la coreografia. Anche la musica è fondamentale e soprattutto, qualche volta è addirittura la cosa più importante, conoscere la cornice entro la quale si sviluppa la storia, chi è il personaggio e quali emozioni prova. Altrimenti tutto si limita ad essere una successione di bei movimenti, privi di alcuna emozione. È anche vero però che la propria esperienza aiuta ad arricchire l'aspetto espressivo. Ricordo ad esempio la fatica psicologica che facevo all'inizio della mia carriera a rivestire il ruolo di Albrecht in Giselle o a danzare Romeo e Giulietta. Non avevo ancora vissuto le problematiche di quei personaggi, mi sfuggiva il sentimento del dolore per una perdita che li caratterizza, e soprattutto in Giselle tutto diventava più difficile per il fatto che nel primo atto dovevo sostenere il mio ruolo quasi senza ballare. Gli insegnanti si contendono il talento di Ulio Bocca e lui passa sempre più tempo alla sbarra. Capelli dritti, fisico asciutto ma ancora acerbo e occhi scuri, entra all'Istituto Superiore d'Arte del Teatro Colón di Buenos Aires. I suoi primi maestri hanno nomi che dicono poco ai profani ma moltissimo agli appassionati di danza. José Pérez, Ninel Yultieva, Caremia Moreno, María Luisa Lemos e poi ancora Gloria Casda Black, Lidia Segni, Wilhelm Burman. Per tutti, Ulio ha una devozione perché sa che grazie a loro il suo sogno può avverarsi. Gli anni della mia infanzia sono stati anni di grandi sacrifici, ma non ne ho mai sentito il peso perché mi sono sempre considerato davvero fortunato a fare, per la maggior parte del mio tempo, quello che più mi piaceva al mondo. Danza classica da una parte, tango dall'altra. E così, mentre è scisso tra due realtà opposte che si formano lo spirito, la professionalità e il gusto di Ulio Bocca. Di giorno composto e disciplinato, schiena dritta e posizione impeccabile, si allena per ore alla sbarra sotto lo sguardo severo dei maestri che spesso non disdegnano una bacchettata sui piedi o sulle braccia quando non stanno come dovrebbero. La sera o durante i fine settimana la mamma lo porta a ballare il tango, una danza i cui passi sono estremamente precisi, ma la passione fa tutto il resto. Impossibile non restare affascinati dai movimenti sensuali dei ballerini che intrecciano i loro corpi a ritmo di una musica struggente, come in un amplesso viscerale. A 13 anni Ulio Bocca è un membro ufficiale della compagnia del Teatro Colón. Un anno dopo il coreografo danese Flemming Flint gli offre per la prima volta la possibilità di fare un pezzo da solista. Lui, orgoglioso, accetta con eleganza, per poi gioire in modo sfrenato in famiglia. Per sua madre, che ha sempre insegnato danza ma non ha mai avuto una carriera importante come ballerina, la soddisfazione di vedere suo figlio, che con lei ha imparato i primi passi da solo sul palco quando si apre il sipario, è infinita. Quando gliel'ho detto è scoppiata a piangere e mi ha abbracciato. Non mi chiedeva mai di farle vedere i pezzi, anche se avrebbe potuto darmi dei consigli lei stessa. Diceva sempre che si voleva gustare lo spettacolo come gli altri, dalla platea. Ormai Julio Bocca è un danzatore a tutti gli effetti. Vive di questo e spera di continuare a farlo per tutta la vita. Si accontenta dei suoi successi e li considera un traguardo insperato, giovane com'è. Esce dall'Argentina e comincia a spostarsi per i teatri del Sud America. Primo ballerino della Fondazione Teresa Carreño in Venezuela. Poi al Teatro Municipale di Rio de Janeiro, Brasile. Incredulo, spaesato, combattuto tra la felicità per quello che gli sta succedendo e la nostalgia per la sua amata Buenos Aires, porta sempre con sé una poesia di Borges e la rilegge per colmare il vuoto della lontananza. Le strade di Buenos Aires ormai sono le mie viscere. Non le avide strade scomode di folla e di strapazzo, ma le strade indolenti del quartiere, quasi invisibili perché abituali, intenerite di penombra e di crepuscolo, e quelle più fuori mano, libere di alberi pietosi, dove austere casette appena si avventurano, schiacciate da immortali distanze a perdersi nella profonda visione di cielo e di pianura. Sono per il solitario una promessa, perché migliaia di anime singole le popolano, uniche davanti a Dio e nel tempo, e senza dubbio preziose. Ai milonga di amore, ai temblor de Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1985. Julio Bocca, giovane ballerino di Buenos Aires con origini italiane, sta cominciando a lavorare nei teatri del Sud America. La sua formazione è classica. Ha cominciato in casa, imparando i primi passi con sua madre Nancy, anche lei ballerina, e ha perfezionato la tecnica nelle migliori scuole a cui è riuscito ad accedere grazie a un incredibile talento naturale. Adesso il suo destino l'ha portato a Mosca, dove ha vinto la medaglia d'oro al prestigioso concorso di danza internazionale. Ero così emozionato. Io sul palco con in mano la medaglia. È stato un traguardo molto importante, forse il più importante, perché da lì, da Mosca, la mia vita è cambiata per sempre. La medaglia di Mosca attira su di lui l'attenzione di tutto il mondo della danza. Siamo in piena guerra fredda e la tensione tra est e ovest è ancora palpabile. I due blocchi si contendono la supremazia del globo. Molti intellettuali e artisti russi, impossibilitati ad esprimersi, hanno chiesto asilo politico in America. Tra questi c'è l'uomo del destino di Julio Bocca, l'uomo che farà di lui una star. È il grande ballerino Mikhail Baryshnikov. Mikhail Baryshnikov. 27 gennaio 1948, Riga, in quella che oggi è la bellissima capitale della Lettonia, ma che fino al 1991 fa parte dell'Unione Sovietica, viene alla luce in una giornata gelida il piccolo Mikhail Baryshnikov. Situata lungo la foce del fiume Daugava, affacciata sul Mar Baltico, Riga ha un centro storico di splendore unico, con i suoi oltre 800 edifici Art Nouveau che ne fanno, grazie ai numerosi caffè, una Parigi del Nord. Impossibile non amarla. Eppure Baryshnikov sarà costretto a lasciarla, tornandovi solo nel 1997. Dopo 30 anni ho rivisto Riga, la città dove sono nato. Con i miei figli ho visitato la tomba di mia madre, ma ormai lì sono un ospite. I genitori di Mikhail sono entrambi russi. Mamma Alexandra Kiselov fa la sarta ed è così brava che le signore della città si rivolgono a lei per farsi confezionare i loro abiti su misura. Papà Nikolai è un ingegnere, lavora per l'esercito sovietico e il piccolo eredita qualcosa da entrambi. La grazia e la creatività da lei, la precisione e il rigore da lui, tutte doti queste di cui fa tesoro nel momento in cui decide di cimentarsi con la danza. Siamo nel 1960, la guerra fredda è probabilmente in uno dei suoi momenti di massima tensione e Baryshnikov, affascinato dalla tradizione dei balletti russi, mette piede per la prima volta in una scuola. Ha già 12 anni. Spesso si comincia molto prima per abituare il corpo alle posizioni innaturali che prevede la classica. Immediatamente però il talento straordinario di questo ragazzino minuto e piccolo, che tutti chiamano affettuosamente Misha, è sotto gli occhi di tutti. Ero il più piccolo della mia classe. E non sono mai diventato alto. Forse il mio volto ingannava, sembravo anche più giovane. Ma presto gli insegnanti hanno cominciato a mettermi davanti quando facevamo gli esercizi alla sbarra. E lì io ho cominciato a crederci. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. La prospettiva Nevsky è la strada principale che attraversa San Pietroburgo al secolo Leningrado. Costruita su imitazione degli Champs-Élysées parigini, parte dalla piazza del palazzo, dove si affacciano il palazzo d'inverno e lo Stato Maggiore. Mikhail Baryshnikov, all'inizio degli anni 60, ne percorre un pezzo tutti i giorni per andare a studiare danza nell'importante Accademia Vaganova, che ha imposto un metodo a livello internazionale. Presto Mikhail vince il prestigioso premio alla Varna International Ballet Competition e viene accolto a braccia aperte nel balletto di Kirov, che ha alle spalle una lunghissima tradizione. Al Kirov la disciplina non veniva impartita a suon di bacchettate. I maestri ci spingevano a cercare motivazioni artistiche e questo significava per noi raggiungere la consapevolezza del nostro lavoro. Nel 1738, presso il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, conosciuto anche all'estero soprattutto come Kirov, viene fondata l'Accademia di Danza e nasce ufficialmente il celebre balletto russo. Pochi anni dopo, quando Caterina la Grande sale al trono, decide che per la sua festa di incoronazione vuole un imponente spettacolo di danza. Per organizzare l'evento, al quale partecipano qualcosa come 4.000 persone, vengono chiamati dall'Italia e dalla Francia i migliori maestri e ai coreografi più bravi viene chiesto di fermarsi a insegnare all'Accademia. Il francese Marius Petipat, per circa un trentennio, dirige i balletti imperiali e crea i più grandi capolavori del repertorio classico come La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci. Per Petipat, la coreografia è al primo posto. La pensa diversamente l'aristocratico e illuminato impresario Diaghilev, che fonda i suoi ballet russi su una concezione di teatro totale, che dia lo stesso peso anche a musica e scenografie. È lui per la prima volta che dà rilievo al ballerino maschio. Lo stesso Mikhail Baryshnikov, interpretando il passo a due di Giselle, ha la possibilità di farsi notare dai maggiori coreografi russi come Konstantin Sergeyev, Igor Chernikov e Leonid Jacobson, che iniziano a costruire pezzi pensati apposta per lui. Sentivo tutta questa tensione su di me. Quando nel 69 ho interpretato Albrecht in Giselle, perfino la stampa internazionale ha iniziato a parlare di me. Mi sentivo spaesato. Il danzatore più perfetto che io abbia mai visto. È così che Clive Barnes, giornalista del New York Times, definisce Baryshnikov dopo averlo visto in scena. Poco più di 1,60 m di altezza, fisico scolpito dall'allenamento, movimenti precisi al millimetro e un'espressione così intensa che trasporta il pubblico dentro una magia. Vedere un balletto in cui Misha è protagonista è un'esperienza indimenticabile. Baryshnikov, virtuoso e ribelle, intraprende varie tournée in giro per il mondo come primo ballerino. Ovunque conquista il pubblico con il suo mix esplosivo di tecnica e interpretazione, tutti lo vogliono. Nel 1974, in Canada, per una serie di spettacoli, esausto dalla situazione di controllo e censura del regime sovietico, decide, seguendo le orme di molti connazionali, la carta della defezione. L'ha già fatto la Marakova, l'ha già fatto Nureyev. Tutti sognano di poter ballare in un paese libero, di potersi esprimere senza limiti. E così Misha volta le spalle non solo alla Russia e al prestigioso Kirov, colpevole di appartenervi, ma anche ai paesi che dall'Unione Sovietica sono stati assorbiti, compresa la sua Lettonia. Sono sempre stato un'anima inquieta. Non ne potevo più di sottostare a un regime nel quale non mi identificavo. L'America rappresentava la speranza della libertà, la possibilità di vivere in pieno la mia vita. E così ho scelto di restare, come esule, in una terra straniera che nel tempo mi ha adottato. Le parole che Baryshnikov sa dire in inglese si possono contare sulla punta delle dita, ma questo per lui non è certo un limite. Neanche quando conquista la splendida attrice Jessica Lange, dalla quale ha la sua prima figlia, Alexandra. Dopo aver chiesto asilo politico a Toronto, si unisce al Royal Winnipeg Ballet e annuncia al mondo della danza che non sarebbe mai più ritornato in Russia. Gli Stati Uniti, ben consapevoli della sua grandezza, lo accolgono come un figlio. Primo ballerino all'American Ballet Theater, dove collabora con Jelsey Kirtland. Poi al New York City Ballet con Georges Balanchine. Nel frattempo è ospite regolare al Royal Ballet e passa con disinvoltura dal repertorio classico alla danza moderna e contemporanea, che riesce a personalizzare dandole un taglio tutto suo. Ho vissuto 16 anni a Riga, altri 10 a San Pietroburgo e i rimanenti negli Stati Uniti. Il mio paese è l'America. Riga non è più la mia città. Io, figlio di genitori russi, lì mi sono sempre sentito un ospite. Riconoscente verso tutti quelli che dall'inizio hanno creduto in lui, Baryshnikov si sente quasi in dovere di ricambiare, credendo a sua volta in giovani talenti. Lontano dalla Russia, ma con un occhio sempre puntato agli avvenimenti interni, non si lascia sfuggire nel 1985 la performance di quel ragazzo argentino che ha appena vinto la medaglia d'oro al concorso internazionale di danza di Mosca, Ulio Bocca. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1985 e due ballerini che non potrebbero essere più distanti stanno per unire i loro destini. Uno si chiama Ulio Bocca, è argentino di Buenos Aires, ha appena 18 anni e porta con sé, insieme a una straordinaria padronanza della danza classica, tutta l'energia seducente del tango. L'altro si chiama Mikhail Baryshnikov, ha quasi 40 anni ed è già famoso in tutto il mondo. Nato e cresciuto a Riga, ha studiato al prestigioso Kirov di San Pietroburgo, ma adesso, dal 74, è in esilio politico in America. Bocca e Baryshnikov sono come la carne e l'aria, come il fuoco e il ghiaccio. Il primo, muscoloso e latino, ha addosso l'odore delle milonghe fumose raccontate da Borges. Il secondo, minuto e leggero, così perfetto da sembrare etereo, porta con sé tutta la malinconia e lo struggimento di un paese perduto che il regista Andrei Tarkovsky aiuta a interpretare. Fuori dai nostri confini, tutto quello che è una leggera malinconia è visto un po' scaramanticamente come sfortuna o scadente tristezza. Ecco, per i russi la malinconia, cioè quello strato sovrasensibile del sentire ignoto che tanto amabilmente chiamano tosca, è davvero l'esatto contrario, cioè è l'esaltazione della sensibilità come migliore caratteristica dell'animo umano. Ulio Bocca ha vinto la medaglia d'oro al concorso internazionale di danza di Mosca. Impossibile per Baryshnikov lasciarsi sfuggire un talento simile, così diverso da lui eppure così vicino. Da direttore artistico, oltre che ballerino, lo invita a unirsi all'American Ballet Theatre. Neanche a dirlo, Bocca accetta con entusiasmo, tanto più che la proposta arriva niente meno che da uno dei suoi più grandi miti. È ancora giovane, inesperto, e si monta un po' la testa. Il mio psicologo si chiama Carlos, mi conosce ed è sempre pronto ad aiutarmi. Mi segue da quando a 19 anni mi montai la testa perché Baryshnikov mi aveva lanciato. Ho la fortuna di essere lucido. Mi guardo dentro e intuisco quando è ora di farmi dare una mano. A Bocca si perdona anche qualche capriccio durante gli allenamenti e Baryshnikov, l'unico con il quale non si permette di lamentarsi, lo promuove primo ballerino, dandogli la possibilità per contratto di fare anche l'ospite presso altre compagnie, proprio come lui stesso ha sempre fatto. Per Bocca è la svolta del destino. Gli si aprono le porte dei grandi teatri di tutto il mondo e in quanto pupillo di Baryshnikov la sua fama lo precede. Con Alessandra Ferri, l'etuale italiana, forma una coppia che da molti viene paragonata all'inossidabile duo Nureyev Fontaine. In pochi anni diventa una vera e propria star della danza, una figura paragonabile a quella di una rock star, fan che lo seguono ovunque, ore di autografi da firmare dopo gli spettacoli, copertine sulle riviste patinate dei cinque continenti, per non parlare della sua Argentina, che ne fa un vero e proprio eroe nazionale. I ricordi più belli? Le risate con Alessandra Ferri, ciò che ho creato, la compagnia e la scuola che porta il mio nome a Buenos Aires. Ho sofferto per non aver ricevuto una buona cultura generale, non voglio che capiti ad altri. Muy bien. Lanciato da Baryshnikov, Ulio Bocca incendia le platee di tutto il mondo, incluso Broadway, sia con il balletto classico che con la sua personalissima rivisitazione del tango. I manifesti di Bocca Tango, in cui appaio nudo, sono stati censurati a Mosca e in Texas. Hanno disegnato uno slip che mi copriva e avvertito il pubblico che il mio era uno spettacolo per adulti. Ma in scena non sono così, anche se il tango è intimo e sensuale. Ho cominciato a ballarlo con mia madre a 5 anni. Quando smetterò e il mio volto sarà meno noto, sarò libero di tornare nelle milonghe. Non mi importa che i puristi del tango critichino il mio, neoclassico. Anche di Piazzolla dicevano che il suo non era tango. Baryshnikov, intanto ormai cittadino americano a tutti gli effetti, continua a macinare successi, non solo in teatro, dove viene riconosciuto all'unanimità come uno dei più grandi danzatori del Novecento, ma anche al cinema e in televisione, dove si diverte a fare l'attore con grandi risultati. Con 2 vite e una svolta, regia di Herbert Ross, vince un David di Donatello e viene nominato sia ai Golden Globe che agli Oscar. Ma il grande pubblico lo ricorda soprattutto per la sua interpretazione dell'artista russo Alexander Petrovsky, fidanzato di Carrie nella serie cult Sex and the City. Ho capito che ti senti a disagio con la poesia. Come mai? Io sono americana. Il romanticismo devi darmelo a piccole dosi. Nei 27 anni di carriera, Ulio Bocca ha ballato 150 volte l'anno. Nel 2007, a 40 anni, dà l'addio alla danza perché, dice, vuole uscire ballando, non camminando. Saluta il suo pubblico con un grandioso spettacolo gratuito a Buenos Aires, dove ad accoglierlo ci sono 300.000 persone. Oggi si dedica alla sua compagnia, nella quale mette anima e corpo. Baryshnikov ha 64 anni, non sta fermo un momento, dividendo il suo tempo tra la sua compagnia, le interviste, cinema e TV. Ulio Bocca e Mikhail Baryshnikov, tra milonghe decadenti e neve, Borges e balletti russi, addii sofferti ed esili forzati. Questa è la storia di un incontro inevitabile, che come in un tango unisce il fuoco e il ghiaccio in un destino in punta di piedi.